Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Siete pronti a vivere in una città che non dorme mai? Sulla scia del modello americano si sta radicando anche in Italia il fenomeno delle aperture notturne, all'insegna di una vita e un consumo sempre più fluidi. Seconda tappa del nostro viaggio alla scoperta dell'economia 0.0 per parlare di innovazione a misura d'uomo. Focus sui trend dedicato infine ai consumi lost and found. Non parleremo però di oggetti smarriti, bensì di luoghi e risorse perse e ritrovate attraverso la cittadinanza attiva, anche via app. Ehi, Flash, ti faccio un indovinello? No! Sì? Bene. Come si chiama un cammello a tre gobbe? Non lo so. Incinto. Ha, ha, ha. Sì, divertente, molto divertente. Ora potremo concentrarci sul... Aspetta. Priscilla. Oh, no. Sì? Flash? Come? Sì? No. Chiama. Un cammello a tre gobbe, incinto. Ok, ormai l'ho detto. Per favore, non... Svelto, è quasi l'ora di punta e... è notte. Tra l'ora di punta e la notte a Zootropolis c'è di mezzo un bradipo che ci fa riflettere sulla gestione del nostro tempo. Mi è sembrata la clip perfetta per introdurre il tema delle aperture notturne, un trend che sulla scia di altri mercati va radicandosi anche in Italia. Ci sono supermercati aperti 24 ore su 24, Carrefour lo fa con un centinaio di punti vendita sparsi da nord a sud, e poi ristoranti, spazi di coworking, talent garden a Milano, palestre, addirittura asili nido, all day long per aiutare i genitori che lavorano in quelle fasce orarie. E a Roma l'Università La Sapienza apre alcune sale per le tirate non stop in vista degli esami. Ne abbiamo parlato con una delle realtà che ha scelto di scommettere sulla formula, McDonald's, il direttore marketing Emanuela Rovere. Diciamo che questo trend è un trend veramente molto forte. La nostra marca McDonald's nasce avendo già una matrice anglosassone con questo tipo, diciamo, di abitudine molto più consolidata, quindi l'accessibilità della marca sempre presente a qualsiasi ora e ovunque è un po' una delle caratteristiche, no, che sono proprio intrinseche al nostro posizionamento. E quindi oggi, partendo dal 2008, in cui appunto nascevano i primi concetti appunto di 24/7, abbiamo una rete di 119 ristoranti su 531, quindi circa il 22% del totale della nostra rete, che offre questo servizio appunto di apertura 24 ore, 7 giorni su 7, proprio per soddisfare la clientela, questo consumo fluido, come lo hai giustamente definito. Questa estensione dell'orario riguarda tutti i servizi McDonald's nel punto vendita? Allora, di questi 119 in realtà la maggior parte sono drive, quindi questa formula che è un po' esclusiva, no, del prendere il cibo attraverso lo sportello del drive. 32 dei 119 però hanno anche tutto il ristorante, quindi anche la sala aperta. Questi 119 ristoranti che distribuzione territoriale hanno? Ma sono abbastanza distribuiti in Italia. Certo, la Lombardia fa un po' da padrone con 23 ristoranti, sono in Lombardia prevalentemente nell'area di Milano, quindi comunque diciamo le aree più evolute metropolitane dove questo tipo di abitudini di consumo sono radicate diciamo da più tempo, sono state un po' le prime a partire, sono quelle che maggiormente diciamo si espandono, proprio in linea anche un po' con quelle che sono le abitudini e le esigenze della clientela. Raccontaci un po' cosa dicono i vostri dati, da chi sono frequentati frequentati? Sono preferite fasce notturne o quelle della prima mattina, per quale tipologia di consumo? Ma allora, intanto comunque le vendite un po' notturne rappresentano il 7% un po' del fatturato, quindi comunque sono una buona percentuale. I target si dividono prevalentemente in due categorie. Diciamo che nella fascia dopo cena e le prime ore del mattino molto il target giovane, soprattutto nel weekend, perché ovviamente è un modo per fare il pre-serata o il dopo serata, no? Rispetto anche per esempio a una serata in discoteca piuttosto che tra amici, mentre poi si ripopola, diciamo, nelle prime ore del mattino con una fascia molto diversa dei lavoratori notturni o dei lavoratori molto mattinieri, e ovviamente questo prevalentemente nei giorni feriali, quindi ha un po' queste due caratterizzazioni di target, diciamo, più abituali. Poi certo è una consuetudine che si sta allargando sempre di più, quindi prima magari erano davvero molto più settoriali, adesso questa fluidità che descrivevi prima ci sta facendo vedere in quelle fasce anche magari target più adulti che in origine non vedevamo nei nostri profili demo. Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dell'economia 0.0, una riflessione che introduce nell'universo dei consumi e dell'innovazione temi quali giusto profitto, gratitudine, centralità dell'uomo. Ce li ha raccontati la scorsa settimana l'ideatore e divulgatore dei principi dell'economia 0.0, che è anche il fondatore della Mediolanum Corporate University, Oscar Di Montigny. Ben trovato. Ciao Maria Luisa, ben ritrovata, buonasera a tutti. Allora, questa sera vorrei partire da una frase manifesto. So che tu hai una delle frasi che citi quando appunto vai a raccontare l'economia 0.0. Sì, vivremo in eterno in quella parte di noi che avremo donato agli altri. E qua già ci sta, insomma, il senso della tua filosofia, della tua ispirazione che applichi al marketing, all'innovazione. Un'altra delle tue parole chiave in questo percorso, ne citeremo parecchie, la responsabilità. Assolutamente. Diciamo che l'economia 0.0 è dedicata a tutte le persone per bene. Il concetto di responsabilità è esattamente questo. L'abilità di saper dare risposte si fonda su alcune consapevolezze. Io credo che qualunque sia il ruolo che un uomo ha nel mondo, a questo ruolo è connessa una responsabilità. Non è importante quale sia la posizione, se si tratta di una gerarchia tipo aziendale o altro. Un genitore ha una responsabilità verso un figlio indipendentemente dalla sua capacità di svolgere bene questo scopo. Quindi, innanzitutto, abilità di dare risposte ad una vita che costantemente ci fa domande. Due, siamo tutti interconnessi. Le tradizioni di qualunque corrente religiosa o filosofica l'avevano dedotto da tanti anni, adesso anche la fisica quantistica è riuscita a decodificare questo sistema. Quindi, se siamo tutti interconnessi, siamo tutti dipendenti l'uno dall'altro. Per cui continuare a perseguire un vantaggio guidato a un paradigma mors tua vita mea non è redditizio, quindi bisogna invertire questo paradigma. Anche perché noi esistiamo solo in relazione ad altro, ad altri e a dei luoghi, per cui ci dobbiamo prendere cura per bene, oltre che di noi, dell'altro e dei luoghi che abitiamo. Responsabilità sociale, impatto sociale delle aziende stanno diventando sempre di più fattori competitivi per i brand. Stanno diventando, lo dicono in molti, una necessità più che un'opportunità. Assolutamente. Resisteranno solo quelle aziende che secondo me sapranno interpretare il loro fare quotidiano, che è offrire qualcosa ad un mercato, guidate da nuovi valori, nuovi principi. Quindi le aziende dovranno riflettere, poiché fanno parte di un sistema economico, se vogliono essere scopo o mezzo di quel sistema, dovranno riflettere se l'uomo, perché dipendente, perché cliente, perché fornitore, quindi all'interno della loro catena del valore, sia un mezzo o uno scopo del loro business, e dovranno perseguire, secondo me, solo ed esclusivamente quello che io ho chiamato un giusto profitto, il right profit. Right, sul vocabolario, è molto semplice. Significa buono, giusto, onesto, corretto. Non ci sarà via alternativa. Questo genererà nel mercato gratitudine, senso di riconoscimento nobilissimo. Gratitudine, anche qua il vocabolario ci viene incontro, memoria di un beneficio ricevuto e prontezza a dimostrarlo. Questa è brand awareness e passaparola, le due leve del marketing principale. Come vedete, di marketing e comunicazione stiamo parlando, in modo diverso però, come vi avevamo promesso all'inizio di questo percorso. Ci dobbiamo fermare per una piccola pausa, restate con noi però, perché tra pochissimo continueremo a parlare di economia 0.0 e poi spazio anche alla riqualificazione urbana via arte e via app. È la cittadinanza attiva, il segreto del fenomeno Lost and Found. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, con Oscar Di Montigny. Stiamo parlando di economia 0.0. Se nel marketing, nella sua impostazione tradizionale, fanno testo i casi aziendali, le campagne di successo, nella tua visione dell'economia e del marketing, Oscar, fanno testo le persone e i loro racconti. La scorsa settimana ci hai parlato di Tara Gandhi, questa sera? Questa sera ricordo con piacere il primo incontro con Patch Adams, il protagonista originale del film di Robin Williams. È stato un incontro esplosivo, chiaramente non abbiamo i tempi per raccontare i dettagli, però Patch mi ha insegnato una cosa: ho visto in lui l'applicazione pratica nell'uso del valore dell'amore in un mondo, quello della sofferenza, parliamo di malati terminali, e di ascoltare racconti che hanno dimostrato che l'amore ha un potere infinito. Lui è un medico dell'amore, usa l'amore per guarire o alleviare le sofferenze. Io poi ho cercato di traslare nel mio mondo cosa questo significasse e ho capito che lì dove c'è un prodotto, domani dovrà esserci un valore, magari concretizzato in un prodotto, in un servizio, ma un prodotto senza valore non sarà più vendibile. I mercati si trasformeranno in comunità, in tribù, cioè in gruppi di persone che aderiranno a valori e che quindi acquisteranno prodotti o servizi. La gente, concludo, si dimenticherà di quello che gli avremo detto, di quello che avremo fatto, ma non si dimenticheranno mai di come l'avremo fatti sentire. L'insight innovazione non te lo chiedo perché me l'hai appena detto. Grazie ad Oscar Di Montigny. Focus sui trend. Dalle aree degradate recuperate agli edifici abbandonati trasformati in musei a cielo aperto, passando per le app dedicate alla cittadinanza attiva per riparare un lampione, coprire una buca oppure ancora sistemare un'area verde. È un fenomeno che ho soprannominato Lost and Found perché racconta di luoghi o risorse date per perse e poi ritrovate. Lo esploriamo insieme a Carlo Ricciardi di Future Concept Lab. Ciao Carlo. Ciao, buonasera a tutti. Allora, da dove partiamo? Io partirei da Big City Life, un progetto che ha coinvolto una borgata romana che si chiama Tormarancia, sul quale è stato effettuato un intervento che lo ha trasformato in un museo a cielo aperto. Sono stati convocati 18 street artist internazionali provenienti da 10 paesi diversi che a titolo gratuito hanno realizzato su 11 palazzi di questo comprensorio di case popolari 20 murales monumentali, alti 14 metri e larghi 10, con una superficie di 145 metri ognuno. Questo posto adesso è diventato un vero e proprio museo all'aria aperta, e l'area quindi è stata riqualificata e numerosi sono i visitatori che vanno apposta per vedere queste opere. Un altro esempio lo abbiamo in Francia ed è un villaggio turistico abbandonato la cui costruzione era iniziata nel 1990 ed è stata sospesa 2 anni dopo per il fallimento della società che aveva in mente di costruire questo villaggio turistico esclusivo. Durante questi anni i graffitari hanno preso possesso di questo territorio dipingendo ovunque tra le rovine. Un abitante del posto ha realizzato un video con un drone che ha registrato più di 100.000 visualizzazioni in un anno e quindi dalla demolizione quasi certa di questo posto potrebbe nascere invece la prospettiva di farne un museo all'aria aperta. Video che postiamo sulla nostra pagina Facebook, auspichiamo anche in questo caso un intervento partecipato, cittadinanza attiva che anticipavamo in apertura ha trovato nella tecnologia, nelle piattaforme e nelle le relative app, uno strumento di potenziamento incredibile. Non possiamo non citare il caso simbolo, Carlo, quello che ha fatto scuola la mamma di tutte le piattaforme di questo genere. Sì, la mamma delle piattaforme è Fix My Street, che è inglese, è nata nel 2008 ed è una piattaforma che consente a tutti i cittadini del Regno Unito di inviare segnalazioni su problemi delle singole realtà locali. Quindi si possono segnalare graffiti, discariche abusive, problemi del manto stradale dissestato o guasti all'illuminazione urbana. È anche possibile inviare relazioni e fotografie indicando esattamente il luogo dove si registra l'inconveniente e nel più breve tempo possibile l'amministrazione si prenderà carico del problema. Negli Stati Uniti l'omologo di Fix My Street si chiama C-Click Fix ed è una piattaforma del tutto simile a quella che abbiamo descritto prima. Copre 25.000 città, tra cui Houston e Filadelfia, e 8.000 quartieri. Il sito permette inoltre di inserire segnalazioni anonime proprio per incoraggiare più persone a segnalare problemi. La tendenza è arrivata anche in Italia. So che hai esplorato i casi nostrani. Quali possiamo citare? Io ne citerei un paio che sono nazionali, che coprono quindi tutto il territorio. Il primo è Decoro Urbano, che è nato nel 2011 ispirandosi proprio alle piattaforme internazionali e permette anche qui di segnalare con fotografie le situazioni di degrado che sono divise per categorie, quindi si va dal dissesto stradale alle affissioni abusive, dai rifiuti alle zone verdi, dalla segnaletica al vandalismo. Qui una curiosità, il miglior segnalatore di questa piattaforma è il signor Davide di Roma con quasi 1300 segnalazioni. Con una logica simile esiste una piattaforma che si chiama Comuni Chiamo, che è adottata da circa 70 amministrazioni comunali. A Milano da maggio 2015 esiste un'applicazione che si chiama Ghe Pensi Mi, con il quale i cittadini possono segnalare al Comune di Milano degradi e anomalie in aree gioco, aree cani e attrezzature sportive. Evoluzione ultima di questo fenomeno, le app che sfruttano GPS, sensori, chip per rilevare e trasmettere le informazioni raccolte dai cittadini. Sì, mi dedicherei a quelle che sfruttano l'accelerometro del telefono e il GPS. Tra le prime, Street Bump, che è stata ideata dalla municipalità di Boston. Con questa applicazione i volontari che la installano registrano automaticamente i dati sulle condizioni del manto stradale. L'amministrazione può così assegnare una priorità maggiore alle segnalazioni più numerose. In Italia è stato presentato da poco un progetto che coinvolgerà tutta l'Europa, che si chiama Crowd for Roads, è basato sull'app Smart Road Sense sviluppata dall'Università di Urbino. Questa app ha la particolarità di essere basata su un algoritmo che distingue tra vibrazioni naturali e quelle invece che dipendono dall'irregolarità del terreno. Partner del progetto, oltre all'Università di Urbino ed altre università europee, è anche BlaBlaCar, che con i suoi 20 milioni di utenti può fornire una mappatura costante ed estesa delle condizioni stradali. Una sola nota, in Italia ci sono circa 800.000 chilometri di strade e questa applicazione al momento ne ha mappati circa 25.000. Insomma, tanto lavoro da fare. Grazie Carlo, alla prossima. Grazie, alla prossima. Il consumautore. Il mondo dei consumi è cambiato, non è sempre facile orientarsi, noi però abbiamo scelto la nostra guida, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco. Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti voi. Il tema che hai scelto per questa sera? Questa sera ho scelto una nuova categoria di consumautori e sono i tech twins, cioè quella categoria di età che è in mezzo a tra l'adolescenza e l'infanzia, quindi diciamo pure da 8-9 anni fino a 11 anni, e è una nuova categoria perché ha come processo iniziatico nuovo il possesso dello smartphone, cioè questa categoria comincia proprio tech, comincia da quando questi ragazzini cominciano ad avere e a gestire il loro cellulare personale. La quotidianità tecnologica di questa fascia di età è un discorso che si è fatto anche in qualche modo per quella precedente, cioè la generazione dei millennials, lo dicono numerose ricerche scientifiche, cambia il cervello anche dal punto di vista proprio neurologico, quindi dell'apprendimento. Cambia il cervello e soprattutto il fenomeno è sempre più precoce. Quello che noi abbiamo detto fino a ieri per i millennials vale sempre più anche per questi che sono i veri nativi digitali, cioè sono, loro sono davvero nati con gli smartphone, e quindi ad esempio la velocità di reazione, la capacità anche intuitiva di gestire gli iPad dei genitori, insomma sono cresciuti in questo modo e quindi hanno un potere anche di influenza ad esempio sulle loro famiglie francamente inimmaginabile qualche anno fa, perché se tu dici qualcosa loro sono in grado di verificarlo quasi immediatamente. Bene, so qualcosa, io ho una figlia proprio di questa età. Nuovi meccanismi, nuovi parametri dunque, Francesco, la differenza di genere ad esempio conta molto meno, conta invece molto la condivisione, la collaborazione. Ecco, questi preadolescenti prima o poi saranno i protagonisti del mondo dei consumi, del lavoro, della formazione. Che cosa comporterà? Lo sono già in realtà, non vorrei spaventarvi, perché quando sei abituato in quinta elementare o in prima media al massimo a condividere con WhatsApp i compiti a casa, è chiaro che dopo qualche anno ti abituerai ad esempio a discutere con i tuoi amici anche delle scelte di consumo, quindi per loro lo sharing è un'opportunità e non c'è nulla di ideologico in tutto questo. Dall'altra parte sono molto più autonomi, cioè non si lasciano più influenzare dagli adulti. E quindi, ad esempio, i metodi di insegnamento devono completamente cambiare. La logica, lo dico più da mamma in questo caso che da giornalista, la logica vincente è quella dello scambio e del dialogo continuo. E anche dell'ingaggio, cioè laddove certo. Ci siano delle dimensioni naturalmente adatte anche a loro, chiedere di partecipare, no? di dire la loro, e quindi questo ad esempio nel modello educativo delle famose classi capovolte funziona molto bene, cioè chiedi a loro di definire i temi, di discuterli e tu da diciamo maestro insegnante incanali questa nuova energia. Questo vale anche per le aziende e per le brand, quindi l'ingaggio e la convocazione diventa davvero la parola chiave. Grazie a Francesco Morace, grazie ad Andrea Roccabella in regia. Essere Avere torna domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.